logicamente se ce l'hai sul tetto è cambiato, ma per quanto la metti sul tetto? Non si può, non si può, l'avevamo messa su, ma i muri sono tutti quanti messi male, non c'è sostegno e non voglio che si faccia danno, quindi ho preferito lasciarla lì, tanto mi faccio sentire lo stesso. Cappa, ma più in alto non la puoi mettere? Ho messo insieme di palo. Ehi, allora già va bene, dai. Ma deve essere che c'è qualche copertura da parte mia, perché sennò ti è arrivato molto più forte a Puglia. Allora, se tu sai dove ci sono le scuole, lo sai dove sono? Io non so con dieggia. Gli asili, dove ci sono gli asili? Lì dietro. Sì. Sì che lo so, ma negli asili sì, no? No, nelle case quei portoni russi. Sì, vicino a Gio Maria. Esatto, lì nel rione. Poi dall'altra parte ci sono le balzacche. Pompimio. Così è, nei portoni russi ci sono le persone come si vede, dall'altra parte ci sono le balzacche. Per carità, le balzacche le trovi da tutte le parti, Antonè, lascia perdere. Ah, e lo vedo io, il suo servizio di Emanuele, era troppo bello, era. Perché ce l'avevo sopra e sotto, sul fatto salire a torre, ti ho dico di torre bombola, quello lì c'ha le bombole vere per lo Torres. L'ho fatto salire su, non se lo aspettava, vedo che non avevo detto niente, ho detto sali su, ho fatto la bomba, ho detto che, ho detto segua una ragazza, ho detto sopra, ho detto sali, ho detto dal piano, ho detto lui, ho detto non sali, e poi ho detto continui, c'è una curva, ho detto sali su, e la porta è a sinistra, ho detto bussi. Non ha bussato lui, ha detto buongiorno, io prendo 100, tutta l'ora che ha aperto la porta. Dice che sono venuto a portargli la bomba, mi è parato in terra, boom, ha giù in testa. Cazzo di Zendia lì? Cosa ne so cosa ha detto? No, carità, ma tu sei ancora? No, non sono io. E studiato. Da Lugani sarà. Sta facendo. E allora sei tu, sì. Io. Secondo me c'è il sale di Lugani. Il 5 ha abbagliato. Ma Lugani. Se vai, un gatto. E accanto a me, ma il segnale non l'hai visto di chi è? No, la verità no. Ehi, guarda bene il segnale, beh, sto andando a portare il piano. Ehi, ok. Cappa. Ui, ui, ui. E questo era dei zendi. Cazzo stavi dicendo della mignola? Cosa stavi dicendo? Perché poi mi sei cambiato il canale, adesso ho messo il lock. E che era già appoggiato mentre ci hanno battuto il canale. Stavo dicendo, se ti ricordi, anzi già lo conosci, a Torre Bombola, quello che parlava Baracchino, la rivendita delle bombole in Viale Palo Torres, ce l'hai presente? Adelante Canaria, Trieste. Trasmetto dalla isola di Sardegna Italia, Estazione Palotta, che ti chiama? Cappa qui Antonio Bombolo Sardegna, cappa. Non sai che Antonio, sento le Canarie in PMR addirittura io, ti hanno un paio di giorni. Sì, gente da fuori. Ma che stai dicendo? A Torre, quello di Viale Porto Torre? Eia. Perché c'era il baracchino che aveva? C'è il baracchino, sì. Abita in via Principessa Maria, angolo la via per andare da Multinito. Abita ancora la palazzina, c'è la mantova sopra ancora. Dai ragazzi, mi stacco che casomai ci sentiamo più tardi. Ciao Antonello, ciao Antonio, ce la riascoltiamo, dai, alle migliori. Vai. Ciao Cinco, ci sentiamo. Ciao, ce la risentiamo. E dove ce l'ha? Scusa, fammi capire bene. Adesso non mi ricordo. Via, perché passava via angolo via di Emilia, mi sembra che dove c'è Montinedo, ce l'hai presente, quella parte da Montinedo e angolo via Principessa Santa Maria, c'è una palazzina lì, e sotto c'è la Mantova, che poi se guardi appena appena prima parte c'è anche un animatore. Ma Montinedo chi? Tonino? Quello di via Mendola. Ho capito. Cavolo, sai che non mi ricordo, non l'ho notata, non l'ho mai notata quella Mantova. Oggi è un posto un po' nascosto, un pochettino nascosto, eh. Io sapevo che lui abitava in Cappa, io lo conosco bene, cazzo. Ah, abitava lì, c'aveva anche la rivendita a Centro Storico, se ti ricordi, la moglie. C'aveva la tenere baracchina anche lì, e in più nella, vabbè, moto carrozzella ce l'aveva, poi l'aveva attaccato. Però ti parlo di 10 anni fa, ce l'aveva ancora. Cappa. Stiamo parlando di Tore, Tore Chezza, no? Esatto, sì, bravo. Ma non lo sapevo, la verità. Sì, ma è 6 anni che non modula, però. Lo so, infatti un sacco d'anni che non modula. No, quando abitavo al centro storico, mi facevo portare la bombola lì in Corso Vittorio Emanuele, capito? Che lui c'aveva la rivendita anche del produttore. Sempre ce l'ha, c'è anche la tana, c'ha. Ah, si sembra comprato quella lì, anche la tana meglio per lui. Sì, sì, sì, perché non lo sapevi. No, non lo sapevo che era roba sua, la verità. Non lo sapevo. Ah, io la verità io non l'ho mai sentito, non l'ho mai sentito. C'è ancora la Mantova, c'è ancora l'antenna, ma è anni che non modula magari. C'è ancora l'antenna, ma è un sacco d'anni che non modula. C'era anche il teleparatore addirittura, non abbiamo 27 ore che aveva. Non mi ricordo adesso, ma sicuramente ce l'aveva anche quella lì. Sopra il negozio. Sopra il negozio, infatti, sì. La antenna ce l'aveva lì al centro storico per andare, aspetta, un po' più su di Piazza Tola, ma attraverso di Piazza Tola mi ricordo bene. Ma non va più nulla, va. Non va. No, baracchino non l'ho più sentito. Adesso non po' che non lo vedo, è la verità. Da almeno 7 anni, 12 anni forse che non lo vedo, figurati, non ho. Ormai non ho bisogno di bombola io qua, c'è il bombolone dello stabile. Prima quando abitavo di lì, lui è Sandolato, chiamava lui. Veniva a Gozo, veniva. Come ti si chiama? Cacciù! Gozo! Papa, adesso non mi viene là. Vincenzo veniva, no? Sì, veniva anche quello, sì, bravo. Il giorno che gli ha parlato la bombola con la ragazza mi sono fatto un paio di risate, perché gli è scesa la bombola in terra, perché gli ha fatto lì caradutami. Questa non la sapevo. Quando è uscito da me, mi ha detto mica sei un bastardo, mi ha detto. Non mi ha detto niente, non mi ha detto, ma dice io cosa ne sapevo proprio che quella era così. Io ho detto ma io sì però. Cazzo, ne è uscita nuda, ne è uscita. E che tu pure la bombola in terra. Cazzo! Tu figurati che quella ragazza lì che abita qua vicino, abita a me, che è sposata con quello che ha aperto i videogiochi qua di fronte, abita lì a Carbonanti, quella ragazza lì che è alta, un pochettino alta, sarà alta 1,70, 1,80, una cosa del genere, bionda, è ufficialista. Figurati che è una cosa allucinante. Mi si è proprio messa a ridere. Vabbè, poi la prima volta che io l'ho conosciuta, che si è messa a fare quel lavoro sopra casa mia, era arrivata la bolletta dell'acqua, no? E sono salito su e mi fa, non mi conosceva a me allora, non l'aveva mai visto. Musso mi fa ciao, ho detto ciao, dice io pido 100. mi fa molto piacere, gli ho detto, io ne prendo, gli ho detto 250, la divido in quattro, gli ho detto, perché qui c'è l'acqua da pagare lei, se no gli ho detto ti fai, da dove c'è, detto mi, c'è la fontana giù al fonte del Rosello, vai lì e ti fai la doccia lì, gli ho detto, sono chiedo due biletti. Una mignotta, no? Eh beh, quel periodo lì, quella lì, aveva 18-19 anni, batteva, adesso è molto più grande. Però l'unica cosa, sceglieva le persone, non le pigliava né vecchi né pastori, niente, ragazzi di 17-18 anni, di massimo 19-20, non di più. Sì, allucinante. Allucinante, cazzo. Ah, se c'è un break, avanti brecco, il parito, deve essere il canaletto. Avanti il brecco, capa! Uiuiui. Beh, lì dai, io ti lascio, ti auguro, ma sono un pochettino stanchino. Ti auguro una buonanotte e a tutti gli ascoltoni di questa frequenza. Buonanotte a tutti, Antonio Bombo chiude, ciao ciao. Ciao Anto, ci sentiamo a domani, ti do anch'io adesso che vado, ormai l'ora giusta per poter andare in farmacia, così vi tiro questa medicina, sono già 19.57, 7 minuti apre l'orario notturno, a dopo, ciao dopo, a domani, ciao, ci sentiamo. Ciao Antonio, sempre 9.20 ti arrivo lì, sì. 9.20, sì, sto usando quello grande lì a palazzo, grande, per modo di dire, il qua di banda sto usando. Ok, dai. Ok, ci risentiamo, ciao. Sì, ciao. Ciao.